È una TV concepita molto diversamente dalla tradizione. Noi non vogliamo duplicare o replicare le piattaforme televisive tradizionali esistenti, che tutti conoscono e che tutti usano. Noi siamo, come si dice, una web TV molto interattiva, personalizzata, in grado di gestire i contenuti che interessano alle singole persone individualmente e alle comunità di persone che hanno delle passioni, con difficoltà a trovare le cose belle che interessano a queste passioni sulle altre piattaforme televisive tradizionali. E per fare questo noi facilitiamo moltissimo la contribuzione da parte di tutti questi membri di comunità, delle social network, a suggerire i contenuti in modo che vengano presentati sulla piattaforma Bubblegum e possono essere goduti dalle singole persone e dalle comunità. È un modo di presentare, di caricare i contenuti che noi diciamo dal basso verso l'alto, al contrario delle piattaforme tradizionali che invece caricano e presentano i contenuti dall'alto verso il basso. Volendo usare anche una battuta, direi che è una specie di YouTube professionale combinata con una Google multimediale. Questa è una televisione che si guarda prevalentemente sul computer, è una TV che arriva via internet, dobbiamo scaricare un piccolo software per vederla. Qual è il modo al quale voi avete pensato, il modo di fruizione di questa TV, di Bubblegum? Innanzitutto si vede Bubblegum tramite un personal computer collegato alla rete internet, per questo che si chiama web TV, quindi servono un personal computer su cui si scarica passando attraverso il sito www.bubblegum.com il cosiddetto client, che è un piccolo software che una volta installato in totale sicurezza permette di entrare nel mondo dei contenuti della televisione via web di Bubblegum. È un'operazione molto semplice, molto veloce, a cui tutti quelli che usano il computer sono abituati. Per esempio, quando uno compra un computer, se deve scaricarsi il player flash, fa esattamente le stesse operazioni che deve fare quando scarica il client Bubblegum. Quindi è un'operazione molto semplice. Occorre un personal computer e la rete web.